se capita. Lo sai che il mare mi agita. Ti canterò di quelle notti ad Oriente, di quella luna che danzava tra i bazar. E dimmi cos'è questo vento caldo che sale, un movimento sensuale, un bacio lungo un'eternità. Far l'amore come ballare sotto un cielo spettacolare. Shimmy, shimmy.